La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ed eccoci insieme alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi, buon fine settimana e buon cinema a tutti qui da Radio 24 nella nostra ora di cinema, quella nella quale cerchiamo di consigliarvi e di darvi tante informazioni su quelli che sono i film, le novità in sala, sul grande schermo e non solo, di questo fine settimana. Un fine settimana che si presenta sicuramente in astri di partenza meglio di quello precedente, in termini di qualità, in termini di interesse anche tematico e artistico dei film che arrivano nelle nostre sale, per cui cominciamo a farcene un pochino l'idea nei nostri titoli di testa. Da Venezia alle sale. Arriva sul grande schermo Che strano chiamarsi Federico. L'omaggio di un grande regista come Ettore Scola a un maestro e amico come Federico Fellini. Sospeso tra documentario e finzione, tra verità e suggestione. Stefano Accorsi è l'arbitro, nel film omonimo di Paolo Zucca. Rivisitazione in chiave grottesca di una figura cardine degli strali di milioni di italiani. Sui campi polverosi della Sardegna, un ex principe del fischietto arbitra la partita decisiva. Al suo fianco, Geppi Cucciari. In un cinema che non sa stare senza saghe, ecco arrivare il nuovo capitolo di Percy Jackson, I mostri del mare. Questa volta i giovani semidei dovranno vedersela con le mire espansionistiche di Cronos. Naturalmente, vinceranno loro. Cast prelibato per una fragile armonia. Christopher Walken e Philip Seymour Hoffman nei panni di due musicisti di un quartetto che implode alla notizia della malattia di uno dei componenti. Il resto lo fa la musica di Beethoven. Allora, questo è il menù piuttosto ricco. Noi cominciamo subito col tuffarci nelle atmosfere costruite, quasi artefatte, volutamente artefatte, ma tanto artigianali e tanto suggestive del cinema di Michel Gondry, perché parliamo di Mood Indigo, tratto dal libro di Boris Vian, La schiuma dei giorni, un libro di culto, un romanzo di culto per più di una generazione, uno dei più grandi e struggenti romanzi d'amore surreali scritti nella storia della letteratura, e non ci poteva essere altro, è stato il pensiero, poi adesso vedremo se è giusto o sbagliato, che un regista così eccessivo, così barocco, così artigianale, così onirico come Michel Gondry per mettere in scena questa storia. E allora noi andiamo a sentire un po' qualche suggestione dal trailer e poi ne parliamo. Ciao Chic. Buongiorno. È il tuo nuovo cuoco? Il mio avvocato è la mia guida spirituale. Cucina per distendersi i nervi. Ci vediamo in frigo. La serva subito. Il mio pianocchio. Ad ogni nota corrisponde un alcolico, un liquore o una spezia. Si ottiene un gusto nostalgico con un accordo minore. Hai sbagliato qualche nota? Diciamo due o tre note personali. Magari felice. Ho conosciuto una ragazza. Non posso che sopportarlo, questo senso di solitudine. Anch'io pretendo di innamorarmi. C'è una festa da ballo combinabile stasera da Bibi. Chloe, lui e Colin, Chloe. Mi sento così ridicolo. Posso andare ora, per favore? Potrebbe restare, per favore. Romain Duris, Audrey Tautou, Omar Sy, protagonisti di questo film di Michel Gondry, Mood Indigo, in breve, storia di un giovane che è abbastanza ricco da permettersi di campare senza lavorare, che ha un amico del cuore che foraggia per comprarsi le opere di un artista che è una perifrasi o una sorta di gioco di parole, si chiama Jean-Saul Partre, e chiaramente la figura di Jean-Paul Sartre è lì dietro l'angolo, che per questo si svena economicamente, e quando arriva il momento in cui la sua innamorata viene colta da una malattia improvvisa e letale e la deve ricoprire di fiori freschi per cibare la ninfa che la divora da dentro, ecco che i soldi non bastano più, ecco la decadenza in rovina, ecco che tutto lo spazio circostante si rimpicciolisce inghiottendolo dentro un finale claustrofobico. Detta così, chiaramente ci vorrebbe una guida. Il film è proprio questo, la storia è proprio questa, e chi ha letto il libro lo sa. Il cinema di Gondry è invece un cinema di accumulo, di eccesso, e forse in questo caso anche troppo, è proprio la cosa che non funziona. Un film che nella prima parte, quando accumula, inonda, soffoca lo spettatore con una serie di macchinari, marchingegni, certo tratti e ispirati al romanzo di Vian, ma veramente troppo eccessivi per riuscire a intelleggerli, per riuscire a creare una relazione anche mentale con quello che si vede sul grande schermo, quando invece nella seconda parte si concentra sulla storia d'amore, ecco che le cose diventano più emotive, un pochino meno costruite e sicuramente più gradevoli. Non era facile, non era un film facile questo. Mi ricorda Il pasto nudo di Cronenberg. Trarre un libro da quel Burroughs può voler dire trarre un libro da questo Vian, trarre un film, scusate, ovviamente, da questo Vian. Però forse l'assioma Gondry onirico, surreale, eccessivo, a fare un film da Vian onirico, surreale, eccessivo, non è stata proprio una grande idea. Ne chiedo in un minuto conferma o meno, ovviamente, a Boris Sollazzo. Ciao Boris. Chiedi conferma e la ottieni, perché appunto l'impresa impossibile di portare Boris Vian al cinema è una sfida che pochi probabilmente sarebbero disposti a sostenere. Nel momento in cui però la accetti, non la puoi affrontare in questa maniera. Il sospetto è che nonostante a Gondry si voglia molto bene, nel vero senso della parola, nel senso che è comunque un artista, ha una genialità, una fantasia meravigliose, non riesca mai a fare il salto di qualità, non riesca mai ad uscire dal suo mondo delle meraviglie, in cui lui è una sorta di Alice che gioca con tutto il contorno e non riesce ad andare al cuore del problema. In particolare se ha uno come Vian, che del depistaggio letterario e delle oziose genialità ha fatto un modus scrivendi, se così si può dire, perché chiaramente già Vian è difficile da controllare, è come un cavallo bizzoso di cui devi sempre capire la direzione che vuole prendere e dargli quella che vuoi tu. Qui invece lui lo segue e ci mette in più la sua voglia di cavalcare altrove, di non andare al centro del punto. Per carità, la storia in qualche modo ti prende lo stesso, perché è una storia, per quanto surreale, d'amore, però hai l'impressione che quei personaggi, Romain Duris, Odretta Tuo, Marcy, siano nient'altro che altro sagome di una scenografia ridondante che tu non hai nemmeno il tempo di apprezzare. Ecco, hai sempre l'impressione di vedere qualcosa che non hai né il tempo né forse la voglia di apprezzare, perché vorresti qualcos'altro. Poi, per carità, per chi ha amato La schiuma dei giorni è difficile, sarebbe stato difficile amare qualsiasi film tratto ispirato a questa storia. Beh, ovviamente è così. Certo che, appunto, come dicevi tu, un Gondry che qui attecchisce, pesca più nelle atmosfere dell'arte del sogno, ovviamente, ma che forse la sua cosa migliore l'aveva fatta con Be Kind Rewind, quando si era un po' sottratto alla accumulazione scenografica e si era un po' più concentrato sulla narrazione pura, e lì veramente secondo me aveva fatto un piccolo gioiellino. Questo per quanto riguarda comunque Mood Indigo, film che più di altri, anche se ne abbiamo sottolineato alcune incongruenze, è da vedere, perché comunque quello che lui ha costruito come scenografia dando corpo ai sogni o agli incubi di Vian è davvero da vedere, però poi da questo a essere un film riuscito chiaramente ce ne passa. Avevo una certa attrazione fin da ragazzetto verso certi personaggi che venivano considerati stravaganti, cioè gli artisti. Così parlava Federico Fellini della sua passione per gli artisti, per questi personaggi stravaganti che hanno invaso la sua fantasia e poi decretato il suo immortale successo. Che strano chiamarsi Federico, diceva García Lorca, lo dice anche Ettore Scola e lo sceglie come titolo del suo film, del film del suo ritorno al cinema, un film da non perdere, assolutamente da non perdere. Un film nel quale un maestro del cinema, un regista di grande incisività che ci ha regalato grandi film come Ettore Scola, rivisita e omaggia la sua amicizia con Federico Fellini, che di lui era ovviamente più vecchio, con un taglio e una scelta di genere davvero moderna, modernissima, che fa piacere vedere in un regista di quella generazione, ovvero un film che non è un documentario, perché non si nutre solo di immagini documentarie, non è un film di finzione, ha delle parti di finzione ricostruite della vita di Fellini e di quella di Scola, ma insomma sono minoritarie e forse neanche le più interessanti all'interno del panorama del film. Mette valori documentali e documenti importanti come la voce di Federico Fellini a servizio di una sorta di controfigura di Fellini che fa parlare proprio con quei dialoghi, e quindi noi sentiamo la voce di Fellini che è quella vera e vediamo un Fellini che è quello del cinema. L'eterno gioco fra finzione e realtà che Fellini tanto amava è qui pregnante, è qui la spina dorsale di questo film, che comincia proprio con gli inizi di questa storia, di questa amicizia, di questa relazione, quando un giovanissimo, esilissimo Federico Fellini arriva a Roma e viene a bussare alla porta di quello che in quel momento era il giornale di punta per quanto riguardava l'illustrazione e la satira, ovvero il Marco Aurelio. Salve, sono Federico Fellini. Avevo scritto al direttore Vito De Bellis. Se è in redazione, magari lo vorrei incontrare. Venite. Salve. Allora, voi mi avete scritto da Rimini. Da Rimini, sì. Graziosa cittadina di mare. Vi vinsi l'ittoriale di pugilato. Ah, davvero? Nel 1932, anno decimo dell'era fascista. Mi avete portato qualcosa? Ecco. Guardate, questi. Questa mi fa ridere. Anche questa mi fa molto ridere. E così cominciò la storia di Fellini al Marco Aurelio, quella stessa rivista dove una decina d'anni dopo arrivava a bussare Ettore Scola e lì si incontravano queste due strade. Ma il film di Scola, dicevo, si ciba non solo di queste ricostruzioni, anzi vive i suoi momenti migliori quando all'interno della magia del mitico Teatro 5 di Cinecittà, quello in cui Fellini ha girato tutti i suoi capolavori e quello in cui questo film è girato, dove gli ambienti sono ricostruiti, svelando la magia del cinema, svelando le proiezioni contro schermi bianchi di una Roma da dolce vita, Scola ci racconta i personaggi laterali, quei personaggi di quel mondo che sta nella vista periferica del nostro cervello e che in quella di Fellini era molto molto sviluppata e che nutrivano proprio quella che era poi non solo la grafica, il disegno di Fellini, ma poi le sue sceneggiature e poi ancora i suoi film. In questo troviamo un Madonnaro davvero speciale, come un attore giovane che però ha avuto anche lui un ruolo importante in uno dei suoi film, ovvero Sergio Rubini. Bellissimo. Insomma, le mani non vengono mai, le mani. Non sono troppo piccole, non sono troppo grandi, non sono troppo nodose, non sono mosce. Sembrano sempre le mani di qualcun altro. Solamente a Michelangelo e a Caravaggio ci venivano bene le mani. A me mai. E allora, le parole di Sergio Rubini, un film nostalgico, dove si sente la mancanza di un amico, di una guida, di un maestro, di uno con cui dialogare della vita prima ancora che di cinema, da parte di Ettore Scola. Si rivive l'importanza del Fellini, faro illuminante di una nostra cultura che andava assolutamente oltre il cinema. Cos'è stato questo film per Scola? Cos'è stato lavorare dentro quell'ambiente? Sentiamo. Non è una storia narrativa, non c'è una storia, non c'è una donna, non c'è un uomo, non c'è in particolare nulla di, forse neanche di inedito. È inedito perché non abbiamo raccontato queste cose di solito né io né lui, ma è una descrizione di momenti, di atmosfere, di arie. Del resto l'avete visto anche da queste costruzioni, non sono costruzioni finite, non hanno il tetto, non hanno una parete, a volte non ne hanno due, perché è un po' così il film, è un po' quello che racconto, non è delimitato, non è preciso, c'è la confusione tipica del ricordo, specie alla mia età i ricordi si fanno più flebili. Un documentario delle suggestioni, quindi potremmo quasi definirlo, questo Che strano chiamarsi Federico, un film però pienamente riuscito, ovviamente dentro ci trovate Marcello Mastroianni, ci trovate il diverso rapporto con questo attore da parte di Scola e da parte di Fellini, ci trovate gli straordinari provini fatti per Casanova da Sordi, Tognazzi e Gassman, immaginate un po' che cos'era il cinema italiano e che cos'è vedere ancora questi straordinari documenti. Che strano chiamarsi Federico è un film da intendere come davvero un film per tutti, un film che insegna qualcosa a tutti, che smuove qualcosa in ognuno di noi, indipendentemente dal fatto che il cinema di Fellini abbia fatto parte o no del percorso della nostra vita. E allora, questo per quanto concerne il film di Ettore Scola, Che strano chiamarsi Federico. Noi cominciamo invece, andiamo proprio sul faceto a giocare con il nostro DVD game, come sempre tre tracce misteriose di un film che dovete indovinare per provare a vincere l'edizione in un video di questo stesso film. Sentiamo. Forse alla nostra giovane ospite farebbe piacere visitare un po' il regno, una specie di giro turistico. E allora, se avete già indovinato di che film si tratta, la rosa purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, scriveteci titolo del film e vostro nome, cognome e indirizzo per poter poi ricevere a casa eventualmente il film, se sarete i più bravi del sabato e della domenica, più tardi vi daremo altre due tracce. Adesso torniamo invece coi piedi a terra, torniamo al cinema di oggi, certo non voliamo altissimo come con Fellini, però ci divertiamo con una commedia americana sparatissima che si intitola Come ti spaccio la famiglia, sentiamo. Com'è andata la serata vicina? Mi serve una lap dance al tavolo 5, non ti avvicinare troppo, il tipo puzza di piscio agli asparagi e ha una mano a uncino. Tu non sei un vicino, sei uno spacciatore. David Clark! Ho una piccola partita di marijuana giù in Messico. Tu portamela qui per domenica sera e io ti pagherò $100,000. È fuori dal mio giro. Non hai scelta. Ma che diavolo è? Ho comprato un'orca, ho parecchi soldi. È facile che al confine ti perquisiscano, potresti travestirti. Come Bane, quello di Batman, tipo... Non c'è droga qui, potete risparmiarvi di cercarla. Ti va di guadagnare 10 verdoni? Traffico di droga? Non è traffico di droga, è contrabbando. Io che attraverso il confine da solo, bandierona rossa. Ma le famiglie? Salve! Neanche le guardano. Quindi tu dovrai fare mia moglie. Ho ingaggiato quello che vive nel mio palazzo e una pipistrella da strada. Kenny, tua sorella. Ho sempre voluto una sorella. Toglimi di dosso le zampe. Dovremmo sembrare una tipica perfetta famigliola americana. Ha una bellissima famiglia. Ah, la ringrazio molto. Siamo i Miller, tesoro. Non ci provare. Scusa. Insomma, Come ti spaccio la famiglia, dirige Rosen Marshall Thurber. Fra gli attori, cast collettivo, segnaliamo Jennifer Aniston, Jason Sudeikis e altri. Ritorniamo da Boris Sollazzo, che ha visto per noi il film. Boris, qui il politicamente corretto va a farsi benedire totalmente. Sì, assolutamente. Spaccio allo stato puro, diciamolo subito. Non saremo dalle parti di un capolavoro, ma siamo dalle parti di uno di quei film che soprattutto dalla metà in poi fa fatica a farti respirare per tutte le volte che riderai, e dovete stare attenti a ridere poco perché potreste perdervi la battuta seguente. Quindi non posso che consigliarlo, anche perché Jennifer Aniston dimostra, a mio parere, di essere ancora molto efficace nella commedia, oltre che di essere ancora una donna bellissima, poche credo alla sua età, che insomma non è verde sicuramente per un'attrice di Hollywood, lo è per una donna normale, potrebbe esporre quel fisico da lap dance, però in verità è un fisico che poi sostiene delle prove durante tutto questo viaggio molto estreme e decisamente più difficili che ballare vicino a un palo. E, politicamente scorretto, a gogo, anche questo dopo una partenza diciamo a rilento, si scatena e non finisce più, non viene risparmiata nessuna categoria, portatori di handicap compresi, lo si fa però con una grande intelligenza, grande arguzia, che a mio parere non risulta mai offensiva. A differenza di molte commedie americane demenziali, più o meno demenziali, qui secondo me c'è un gusto più europeo, ci sono un paio di scene diciamo un po' estreme, ma le altre invece sono molto più vicine al nostro senso dell'umorismo e per questo funziona molto di più. Ha funzionato per esempio a Locarno in maniera straordinaria, perché lì è stato presentato al festival dopo che era già uscito in America e aveva ottenuto grandiosi risultati. Bravissima Emma Roberts, che ormai la vediamo sempre in ruoli lontani dall'immagine che normalmente abbiamo di lei. Voglio solo ricordare, per far capire, per inquadrare, che Masha Tarber è quello, cioè il regista, è quello che ha fatto Palle al Balzo, uno dei film più folli che si siano stati fatti negli ultimi anni, demenziale ma molto molto divertente, con un cameo di Chuck Norris, e che il mio consiglio è: andatelo a vedere, poi comprate il DVD di National Lampoon's Vacation, che è il primo film di questo genere, godete nel vedere le citazioni e nel vedere quanto vi divertirete anche in questo. Che cos'è questo? Un pallone sgonfio. Una sfera. Una ruota. No! Questa è aria. Aria foderata di cuoio. E l'aria vola. Hai comprendi? Vola dalle fasce al centro. Dalle fasce al centro. Lei non è un arbitro in fuori classe. Avevi detto che venivi. Solo se dicevi. Sì, però come se abbiamo vinto. Allora al cinema non ci vengo, ma è come se c'ero venuta. Che bella la filosofia sulle note della Carmen, di questo calcio, di questa palla che è solo una sfera di cuoio che riempie, che contiene l'aria che vola da destra a sinistra, da sinistra a destra. Boris Sollazzo, per i calciofili come noi ce n'è d'avanzo anche già in questa descrizione di questo film. L'arbitro, presentato alle giornate degli autori, abbiamo parlato prima di grottesco e di onirico e di surreale con Gondry. Beh, insomma, anche qui Paolo Zucca ce le mette. Un film che nasce da un cortometraggio che aveva lo stesso tema ed aveva lo stesso titolo, ma che adesso è diventato un lungometraggio, con Stefano Accorsi a fare, e che sentiremo fra poco, a fare appunto da ex principe del fischietto decaduto e mandato sui polverosi campi della terza categoria sarda a dirigere una partita che si è fatta davvero molto molto pericolosa. Cortometraggio raccontava solo questa partita, quest'ultima partita, raccontava con molte ellissi la vicenda dell'arbitro, di cui non si capiva questa improvvisa caduta, anche se chiunque ha fatto l'arbitro sa che l'arbitro può solo cadere. Nel caso non si parli di lui, allora vuol dire che rimane dov'è o va avanti, ma normalmente può solo cadere, ha una sola strada, l'ha detto lo stesso Accorsi, che è quella di andare avanti, e lui, Zucca, sfrutta questo per allargare questo corto. Giustamente, il corto era bellissimo, ha vinto anche dei premi, tra cui, se non sbaglio, il Davide Donatello, e però si sentiva la mancanza della retrostoria, e lui lo allarga e sostanzialmente ci racconta tutto, ci racconta di questo derby continuo campanilistico che si gioca in Sardegna, contrapposto a questo arbitro che è un po' il Rosetti, un po' Nureyev, che è ispirato, quasi plagiandolo, meno male, perché è un documentario fantastico, dall'Es Arbitre, Kill the Referee, dove si raccontava, tra le altre cose, si raccontavano le vicende del nostro Rosetti e di altri arbitri svizzeri, inglesi, come Webb e via dicendo, che ambisce a una finale europea, vuole arrivare al massimo del massimo e sostanzialmente è pronto a tutto per questo. È gustosissimo per i calciofili cercare di individuare il grande boss francese e il traffichino toscano che cercano di farlo arrivare a questa finale, perché c'è qualche citazione direi perfida del buon Zucca, ma questo non è un film di calcio. L'arbitraggio, il calcio, il campo sono il pretesto per raccontare una parabola umana, la parabola umana che va dall'ambiguità all'ambizione alla voglia di vincere e riscattarsi, che è quella della Sardegna, del calcio più puro, del calcio più divertente, del calcio più romantico, del calcio che vede non una sfera nel pallone ma dell'aria foderata di cuoio. E c'è quel tipo di entusiasmo, quel divertimento. Zucca, e qui finisco, ha un grande merito. Come un bravo allenatore mette in campo una squadra che ha grandi campioni. Stefano Accorsi, secondo me, qui è nella sua migliore interpretazione, perché è eclettica, divertente e addirittura balla, cosa che a memoria non ricordo in altre occasioni. Ma va a prendere anche ottimi giocatori, spesso sottovalutati, sai, quei parametri zero magari che di solito altri registi non prendono. Mi viene in mente un Di Clemente, capitano della squadra dei cattivi, che a me è piaciuto molto. È veramente una delle migliori commedie italiane che ho visto negli ultimi anni. E allora andiamo a sentire Stefano Accorsi, questo principe degli arbitri finito nella polvere sarda, in questo caso, nell'intervista che ha rilasciato proprio a Boris Sollazzo. Non si capisce bene se tu prendi più spunto da Rosetti o da Nureyev, visto alcune... Ma diciamo un po' e un po'. Ci siamo divertiti a studiare la gestualità degli arbitri e anche a reinventarla e anche a dimenticarcela in certi momenti. E poi c'è questo balletto, insomma, che era divertente, l'idea di Paolo di raccontare un uomo che fondamentalmente vive di solitudine e di un gatto e di ambizione. L'unico modo che ha per esultare o per trasmettere una gioia che lo anima è proprio ballare, quindi mi è piaciuta l'idea di fare un personaggio così fisico, però con queste specie di pantomime divertenti, non so, mi piace, mi diverte molto. No, io non ho fede calcistica in realtà. Devo dire che mi dispiace, poi mi dispiace sempre di più. Cioè io prima ero fiero anche di dire no, io non ho fede calcistica, invece oggi più lo ripeto e più mi sento un uomo solo in realtà. Come un l'arbitro. Uomo solo come l'arbitro. Quindi dicevo, credo che mi inventerò una fede calcistica, tutto un passato, non so. Io non mi sono mai sentito così italiano come da quando vivo all'estero, perché ti rendi conto di tante cose che prima dai per scontate, che ti sembrano ovvie nella tua quotidianità, nella tua vita, e poi ti rendi conto invece di come siano caratteristiche peculiari che si trovano solo qua. Quindi più che incacchiare, devo dire, aumenta quando vedi certe cose che non funzionano o come viene trattata la cosa pubblica, come è stata trattata in certi casi, ti viene proprio male più che incazzatura. Ti fa male perché ti rendi conto che rispetto ad altri, quando li conosci un po', siamo un paese che ha un potenziale gigantesco e il fatto che invece venga così trattato, mal gestito in questo modo, non so, fa proprio tanto tanto male, ti fa anche incazzare, però dopo un po' non è che puoi sempre stare incazzato. Senti Stefano, ci sono vari film come che gli ho riferì, L'esarbitro che sì. È passato a Locarno, siccome ho trovato alcune vicinanze tra questi film e il vostro, mi chiedevo se tu per prepararti avessi visto anche questi film. Il referì l'abbiamo visto, e come? Piuttosto che tanto materiale di repertorio su internet, YouTube, eccetera. E Kid Referee è molto interessante come documento. Abbiamo parlato anche con un ragazzo che fa il mestiere dell'arbitro, ci ha detto di quanto sia spietato in realtà come mestiere. L'ambizione è fondamentale, perché se non c'è l'ambizione che ti fa progredire in continuazione, se ti sbagli riparti da zero e lì ti fermi. Cioè non hai due possibilità nel mondo dell'arbitraggio. Era molto interessante il referee, insomma, quella frase che dicono che quando un arbitro arbitra bene non se ne parla. Cioè è veramente un mestiere particolare, molto solitario, grande ambizione, sono sempre tutti insieme, però alla fine è spietato, perché non c'è nessuna squadra, c'è chi poi ce la farà, chi non ce la farà, sono gomito a gomito, devi imparare anche, è strano, sono sempre in gruppo ma sono un gruppo di solitudini. Non è scusa. Ma io! Arbitro! Quanti anni hai, figliuolo? 11. Ecco qua. E becca questo limoncino. Così impari a simulare. Oh, ma che sta scherzando? L'arbitro Mureno non scherza mai! E allora questo era L'arbitro nei cinema italiani con Stefano Accorsi. Game, seconda traccia del film misterioso di oggi. Povera dolce bambina. Devi avere un problema molto serio se piange in questo modo. Se solo potessimo fare qualcosa per aiutarla. Ma certo che possiamo aiutarla. E ci sono anche già delle bolle che fanno capire a chi non avesse già capito di che film si tratta. La Rosa Purpurea @radio24.it. Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo. Provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica. Più tardi avremo l'ultima possibilità. E allora un altro film di cui dobbiamo parlare, un'altra novità in sala che si impone quantomeno per quanto riguarda il cast, perché io quando vedo personalmente Philip Seymour Hoffman e Christopher Walken insieme su una locandina al cinema c'entro sicuramente, poi magari dopo me ne pento, non lo so, mi è capitato, devo dire, poche volte, ma sono attori che mi richiamano fortemente alla sala e spero che sia così anche per voi. Con questo Una fragile armonia dirige Yaron Zilberman, storia di un quartetto d'archi, quindi c'è anche quella soavità della musica, c'è Beethoven, c'è New York in autunno, insomma ci sono tanti ingredienti molto molto suggestivi. Formato questo quartetto da un Peter Mitchell, Christopher Walken, violoncellista vedovo e però di grandissimo spessore internazionale, Daniel Lerner, primo violino ossessivo e maniacale, e una coppia, Robert e Juliette Gelbart, lui il secondo violino, lei la violista. Cosa succede? Che quando al violoncellista Christopher Walken viene diagnosticata una malattia progressiva, il quartetto implode improvvisamente e tutti cominciano a avere problemi con tutti gli altri, anche fra marito e moglie, anche fra padri e figlie. Succede davvero un 48 che poteva generare addirittura una slapstick comedy in qualche modo, qui è trattato in chiave drammatica, anche se fra poco ne parleremo, forse non tutto, anzi sicuramente non tutto riesce, causa di una regia un po' troppo statica. Però io prima voglio farvi ascoltare una clip dal film, sentiamo. Mi dica quello che pensa. Aspettiamo i risultati delle analisi. Tu quale strumento suoni? Secondo violino. Non ti viene voglia di fare la parte del solista qualche volta? Sì, certo. Ho parlato con la dottoressa Nadir per dei disturbi che ho avuto ultimamente. È Parkinson, ha detto. Parkinson? Vorrei dare il mio addio alle scene durante il primo concerto della stagione. La cosa migliore per il quartetto è pensare al futuro. Io non voglio più fare esclusivamente il secondo violino. Ma non si sta parlando di te o di me. No, si sta parlando del quartetto. Perché non mi vuoi appoggiare in questa storia? Lo faccio. Si fermi, per favore. Ma ti prego, non farlo. Opera 131 di Beethoven, dal trailer di Una fragile armonia, A Late Quartet, il titolo originale. Dicevamo però un'occasione solo parzialmente colta, a causa soprattutto di una regia che non segue la verve e soprattutto l'alternanza dei moti, dello spirito e della musica di Beethoven. Boris Sollazzo, è così? La pensi così anche tu? La penso assolutamente così. Qui addirittura scomodare Beethoven forse è una mancanza di rispetto verso il grande musicista, nel senso che non rispetta, a mio parere, neanche le alternanze di movimenti di compositori o addirittura cantanti pop molto più scarsi del famoso Ludwig Va, portato alla celebrità cinematografica dal buon Kubrick. E qui c'è un grosso problema, a mio parere, che si hanno degli assi come Walken e Seymour Hoffman in grande forma, ma anche come Catherine Keener. Si ha l'appoggio della musica, che soprattutto ultimamente è foriera di belle trame, di accompagnamenti in tutti i sensi molto potenti, però si ha un documentarista che ci si potrebbe aspettare, visto gli ultimi successi dei documentari, che potrebbe dare quel salto di qualità, quel colpo in più in canna di un linguaggio cinematografico diverso, e che invece compie l'errore che a questo genere si attribuiva tanto tempo fa: la staticità sia narrativa sia visiva. Non si capisce mai dove si vuole arrivare, cosa si vuole provocare nello spettatore, e gli stessi attori vengono diretti francamente male, e quindi Una fragile armonia non raggiunge quello che il suo titolo italiano si prefigge, cioè proprio quella fragile armonia che faccia diventare tutto magico. Sembra più che altro un solido squilibrio. E allora, col solito squilibrio di Una fragile armonia, noi salutiamo Boris Sollazzo e gli diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao Boris. Arrivederci a tutti e buon cinema. Ancora insieme alla Rosa Purpurea siamo arrivati alla quarta parte, alla quarta area della nostra trasmissione, quella in cui dobbiamo parlare di cinema da vedere in casa, di film da vedere o rivedere sul piccolo schermo. Siamo in collegamento con Giulio San Giorgio, con la redazione di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Proposta come sempre articolata dai palinsesti delle televisioni in chiaro della prossima settimana. Tanto buon cinema. Noi abbiamo scelto tre film, due per analogia, ne parliamo fra poco. Uno è invece un film che di solito si imprime come se fosse stato scolpito con il punteruolo nella mente e nella memoria di chi lo vede. Stiamo parlando di Tony Manero, il film di Pablo Larraín, che c'entra solo in parte con il grande personaggio della Febbre del Sabato Sera. Sì, domenica su Rai Movie alle 23:15, Tony Manero. Siamo a Santiago del Cile nel 1979 e tutti i sabati Raul tiene il suo spettacolo appunto nei panni di Tony Manero, la star della Febbre del Sabato Sera. L'aria in che si respira nel paese è micidiale, la dittatura di Pinochet impazza. Raul però ha uno scopo, sfondare nel mondo dello spettacolo, e per quello scopo è davvero pronto tutto, persino ad uccidere. Un protagonista sgradevole come pochi altri, Raul è braccato dalla cinepresa per l'intera durata del film in una completa identificazione con gli anni violenti e colpevoli della dittatura. È una pellicola sicuramente politica, da uno dei registi di culto del cinema contemporaneo, Larraín, poi autore di Postmortem dell'ultimo Noi giorni dell'arcobaleno. Un autore abituato a parlare della storia con la S maiuscola, la storia del suo paese da prospettive marginali con la S minuscola. E allora Tony Manero, film assolutamente da non perdere, domenica 15 settembre su Rai Movie alle 23:15. Dicevamo invece film che noi vi proponiamo entrambi per analogia, anche perché vanno in onda uno dietro l'altro, quindi come dire compongono una bella serata. I due Psycho, prima quello di Gus Van Sant 1998, dopo il capostipite, il capolavoro immortale di Alfred Hitchcock del 1960 su Top Crime. Giulio, lunedì su Top Crime, il primo alle 21 e il secondo alle 22:50. Parliamo prima però del film di Hitchcock, uno degli scandagli nel delirio della schizofrenia, uno dei film più inquietanti della storia del cinema, un calderone di invenzioni registiche e di traiettorie psichiche che hanno molto a che fare con guardare il cinema dal voyeurismo al sadismo. E Van Sant fa di questo capolavoro assoluto un rifacimento inquadratura per inquadratura. E il film però che ne risulta non è decisamente la stessa cosa. Van Sant infatti è come cosciente del fatto che il cinema di oggi non lascia nulla all'implicito, al mistero, alle domande dello spettatore, e mette tutto in superficie, fa vedere sempre qualcosa in più, i dettagli nascosti, così come sono espliciti i colori di quello che un tempo era lasciato al bianco e nero, e anche i personaggi in fondo sono più stereotipati, sembrano caricature. Il film di Van Sant è un testo chiave per capire il cinema di oggi, la sua tendenza a mostrare tutto, a erotizzare tutto, a consumare tutto, anche quello che dovrebbe rimanere taciuto. È quasi un'opera d'arte concettuale, in fondo. E allora la doppietta Psycho, Van Sant più Hitchcock, martedì 17 settembre su Top Crime alle 21 e alle 22:50. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima con le nostre segnalazioni. Terza traccia del DVD Game. Ma un giorno anch'io, se mai potrò, esplorerò l'anima lassù, fuori dal mare. E beh, qui insomma, nome, cognome, indirizzo, La Rosa Purpurea a @radio24.it, di che film si tratta? Provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film per il più rapido fra i nostri ascoltatori che indovineranno il sabato e la domenica. Settimana prossima vi diremo chi sono i fortunati, anzi i bravi vincitori, più che fortunati in questo caso. Andiamo invece a sentire una traccia della settimana scorsa. Sei un cadavere? È lui che mi ha salvato la vita. Lui si è preso cura di me. Ho fatto scattare qualcosa in lui e questo deve aver innescato qualcosa in tutti loro e... No, ho fatto scattare qualcosa in me! Papà! No, papà! No, vogliamo aiutare! Si trattava di Warm Bodies, film di questa stagione cinematografica che ha cercato di dare anche una luce cinematografica un po' diversa alla moda, ormai possiamo chiamarla, del revival vampiresco innescato da Twilight, ma insomma seguito anche da molti altri film. Di Warm Bodies sono stati capaci, vincitori, Laura Capozzi di Monopoli, provincia di Bari, e Franco Santonastaso di Padova, saranno loro a ricevere l'edizione in Blu-ray, che ci facciamo raccontare dal nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ben ritrovato Franco, un saluto agli ascoltatori. Sì, da Lucky Red, War Bodies è arrivato su DVD, ma soprattutto in Blu-ray, quest'ultimo veramente di pregevole fattura, con un eccellente risultato per le immagini. Ci sono due tracce di TS ad alta risoluzione, in italiano, comunque quella in italiano è piuttosto dinamica, ci sono momenti coinvolgenti e addirittura superiore quella in lingua originale. Come extra segnalo scene tagliate, due focus sugli attori in set e c'è un'intervista all'attore Nicholas Hoult. Ai collezionisti ricordo che c'è anche un'edizione americana, chi la volesse acquistare, che contiene alcuni inediti, tra cui il commento al film. E allora, questo per quanto concerne War Bodies, il game della scorsa settimana. Andiamo alle recensioni, alle novità che arrivano nelle rivendite in questi giorni, partendo da un film, l'ultimo film realizzato in ordine cronologico, da Pedro Almodovar, Gli amanti passeggeri. Mi hanno appena finito di dire che siamo ancora a Toledo e che forse esplodiamo all'atterraggio. Ah, per favore, che esagerazione! Abbiamo qualche problemino. Problemi molto gravi, in verità. E stiamo bevendo per dimenticare. Io no. Io ho chiuso con l'alcol. E l'acqua di Valencia lo stiamo facendo per i passeggeri. E per noi anche. Anche per queste, temo. Peccato che non abbiamo un po' di mesca da aggiungere. E ci avevo pensato, eh. Alla fine ho portato solo eroina, coca e pasticche. Che testa sciacqua che c'ho. Ma se la mescalina l'hanno ritirata nell'86? La stanno fabbricando di nuovo a Valencia. Oh, sì. Io ho una mica pusher che la vende a Madrid. A causa di una avaria, il volo di una compagnia aerea spagnola diretto a Città del Messico è costretto a girare in tondo in attesa di una pista disposta a gestirne l'emergenza. A bordo un originale terzetto di steward che abbiamo appena ascoltato, steward omosessuali che, dopo aver addormentato i passeggeri della classe turistica, fa di tutto per intrattenere quelli della business, mentre si tenta di esorcizzare la morte tra alcol, droga, sesso e musical. Il maestro spagnolo realizza una riuscita commedia esuberante, mista a elementi quasi surreali, tra drammi personali, momenti di ilarità, per raccontare in fondo del popolo sedato per non insorgere, mentre la classe ambiente affoga in svaghi lascivi piangendo sui propri errori terreni. Da Warner Home Video, l'edizione solo DVD del film di Almodóvar, di Buona Resa d'Insieme, doppia traccia Dolby Digital multicanale italiano e spagnolo, da provare sicuramente anche l'originale per gustarsi il diverso tono del racconto. Come extra circa 6 minuti di immagini seguendo il regista durante la lavorazione. E parliamo invece di un film della scorsa stagione, proprio un anno fa, Venezia, uno dei film che avevano illuminato la 69esima mostra del cinema era stato La nave dolce, diciamo pure un anno prima che il documentario irrompesse in concorso e vincesse il Leone d'Oro con Sacro Gra di Gianfranco Rosi quest'anno. E allora La nave dolce di Daniele Vicari. Ero molto legato alla TV italiana come tutti gli albanesi. Perché noi vedevamo le TV italiane, tutti parlavano l'italiano, era come un tipo di finestra da dove noi guardavamo per guadagnare la nostra libertà. Prodotto nel 2012, questo documentario di Vicari riporta alla memoria i drammatici giorni del cosiddetto sbarco dei 20.000, quando a metà agosto del 1991 approdava presso il porto di Bari una nave zeppa di profughi stremati in fuga dall'Albania comunista. Un'opera toccante che ricostruisce gli eventi attraverso recenti testimonianze sapientemente montate a preziose immagini di repertorio, dall'apertura del porto di Durazzo e l'imbarco verso un sogno di libertà trasformatosi in incubo. Da Mustang Entertainment l'edizione DVD di ottima qualità, nonostante i comprensibili cali di resa tecnica per le sequenze di repertorio, traccia Dolby Digital multicanale italiano è comunque di buona resa, oltre a una galleria fotografica molto interessante, un'esclusiva quanto approfondita riflessione da parte del sociologo Franco Cassano. E questo era La nave dolce, il film di Daniele Vicari, davvero notevolissimo questo documentario, anche molto molto emozionante. Allora grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana con le segnalazioni in un video. Ciao, a presto! E siamo arrivati alla fine allora della nostra trasmissione, non ci resta il tempo che ricordarvi la nostra pagina Facebook, così stiamo insieme tutta la settimana, La Rosa Purpurea Radio 24, cercatela su Facebook, cliccate mi piace e unitevi alla nostra comunità, giorno per giorno classifiche, la puntata da scaricare in podcast, anche lo spazio per dire la vostra sui film che vedete. E poi ringraziare in redazione come sempre Giorgio De Luca, in regia Pietro Lacorte, e darvi appuntamento alla prossima settimana qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.